Io non so se tra il sorriso della verde estate e la tua verde differenza vi sia una differenza. Io non so se io rimo per incanto, per travagliata pena. Io non so se rimo per incanto, per ragione. E non so se tu lo sai che io rimo interamente per te. Troppo sole ha imbevuto il mare nella sua prigionia tranquilla, dove il fiorame del mare non vuole mettere mano ai bastimenti affondati. L'alba si muove a grigiori lontana, io non so se tra le pallide rocce io incontravo lo sguardo, io non so se tra le monotone grida incontravo il tuo sguardo, io non so se tra la montagna e il mare esiste pure un fiume, io non so se tra la costa e il deserto rinviene un fiume accostato, io non so se tra la bruma tu t'accosti o non so se tu cadi o tu tremi, tu non sai se io piango o dispero, disperare, disperare, disperare è tutto un fabbricato. Tu non sai se io piango o dispero, tu non sai se io rido o dispero, io non so se tra le pallide rocce il tuo sorriso.